fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. E buonasera ragazzi, noi siamo nel confessionale di Grande Sorella con la sorella Valentina e sono in compagnia di due fidanzati, lo possiamo dire? Esatto, Nicole. Diego. Diego, buonasera ragazzi. Come procede questo festeggiamento della vostra amica? Bene, bene, bene, sì, ci stiamo divertendo. Mi vedo stracarichi, sì. Giusto? Sì. Da Bergamo, scommetto. Esatto, anche voi. Esatto, wow. Sì. Wow. Allora, mi dicevano che siete una coppia molto affiatata, è vero? Sì. Sì, sì, 3 anni ormai che siamo insieme. Quindi siete belli affiatati, giusto? Sì, sì. E quando il matrimonio? No. Ancora presto. Cosa fate nella vita, ragazzi? Io studio economia aziendale. Io lavoro, faccio geometra più o meno. Diciamo che sì. Belle, belle, due belle carriere, diciamo, ragazzi. Si spera. Si spera. Io almeno si spera. Cosa speri di fare nella vita? Ma sinceramente non lo so. Allora, uno, di essere felice, almeno, e due, di essere soddisfatta di anche tutti i sacrifici che sto facendo adesso, che da poter dire ne è valsa la pena. Ne è valsa la pena, esatto. Ne è valsa la pena. E vogliamo fare una dedica alla fidanzata, vediamo se sì, questo fidanzatino ci prova. Vai! Tipo, provaci tu. O facciamo fare a lei, cosa dici? La dedica è impegnativo, cioè una cosa breve, con cosa provi per lei, se vuoi ringraziarla, qualsiasi cosa. No, alla fine la ringrazio perché soprattutto nell'ultimo periodo non stiamo passando, diciamo, un momento facile sia per il lavoro, a casa, tutti gli impegni, però siamo sempre vicini, quindi ecco, quello è l'importante. Poi insieme è più facile superare i momenti difficili, quindi vero. Puoi ecco. Risponderlo, dai, che aspetta anche lui una risposta. Io lo ringrazio che mi sopporta ultimamente, cioè da sempre, ma ultimamente in particolare, devo dire un po' di più ti sopporta, un po' di più ultimamente, sì. Chi è dei due, diciamo, quello un po' più che dà noia oppure che fa le paranoie dei due? Io. Sì, assolutamente sì, perché lui lo vedo molto tranquillo. Sì, ma io, allora, io magari a lei trasmetto più tranquillità, però dentro dentro sono complicato. Però a lei faccio trasparire serenità, diciamo. Vabbè, uno dei due della coppia dovrei fare anche questo passo. Lei la vedo molto attiva, molto... Sì, sì. Poi io con lui non riesco a fingere qualcosa che non sono. Quindi se, per esempio, sto esterni male... Esterni tutto. Tutto. Quindi lui alla fine assorbe quello che io provo. Invece lui sembra sempre tranquillo, pacato, e in realtà no. Qui fuori abbiamo lei... altri amici che sì. Ballano e si stanno divertendo. Lei ha festeggiata il cugino. Il cugino. E l'amica. E l'amica. Sì. Ciao ragazzi, è stato un piacere. Non vi sento. Mi dispiace ragazzi, ma senza che parlate da lì fuori. Io facciamo una cosa, vi faccio uscire, okay. E faccio entrare la festeggiata. Intervistiamo anche la festeggiata, dai. Lei che fa il segno di bere. Dai, vieni, vieni che ti aspetto. Ho due domande da farti. Va okay. Bene ragazzi. Non so se preferisci far entrare. No, no, no, aspettiamo, facciamo entrare prima la festeggiata. Ragazzi, vi auguro una buona serata e un buon divertimento. Grazie, grazie ragazzi. Ciao.